Terzo anello ad alta voce. Il processo di Franz Kafka. Ti darei una buona ricompensa se li lasciassi andare, disse K al bastonatore, e senza guardarlo tirò fuori il portafoglio. Allora vuoi denunciare anche me, disse il bastonatore, e far prendere bastonate anche a me? No. Sii ragionevole, disse K. Se avessi voluto che questi due fossero puniti, adesso non cercherei di riscattarli. Potrei semplicemente richiudere la porta senza volere vedere né sentire altro e andare a casa. Invece non lo faccio. Anzi, tengo sul serio a liberarli. Se avessi immaginato che sarebbero stati o sarebbero potuti essere puniti, non avrei mai fatto i loro nomi. Infatti non li ritengo per nulla colpevoli. Colpevole è l'organizzazione. Colpevoli sono gli alti funzionari. È così! Gridarono le guardie e subito ricevettero un colpo sul dorso già scoperto. Se sotto la tua verga tu avessi un giudice di alto grado, disse K, abbassando mentre parlava la verga che già stava per rialzarsi, non ti impedirei certo di picchiare. Al contrario, anzi, ti pagherei anche per averti più forte al servizio della buona causa. Quello che dici può certo essere vero, disse il bastonatore, ma io non mi lascio corrompere. Sono addetto a bastonare, dunque bastono. Franz, fino a quel momento piuttosto riservato, forse perché si aspettava che l'intervento di K avesse buon fine, si avvicinò coperto coi soli calzoni alla porta, si mise in ginocchio aggrappandosi al braccio di K e sussurrò: se non ti riesci di farci risparmiare tutti e due, cerca almeno di liberare me. Willem è più vecchio, meno sensibile sotto ogni aspetto. Qualche anno fa subì anche una piccola bastonatura. Io invece non sono ancora disonorato e sono stato indotto a comportarmi in quel modo soltanto da Willem, mio maestro nel bene e nel male. Davanti alla banca, giù in basso, c'è ad aspettarmi la mia povera ragazza. Mi vergogno in maniera terribile. Con la giacca di cappa si asciugò il viso inondato di lacrime. Non aspetto più, disse il bastonatore. Strinse la verga con due mani e colpì Franz mentre Willem si rannicchiava in un angolo e guardava di sottecchi senza osare di volgere il capo. A questo punto si levò il grido emesso da Franz, uguale e continuo. Non sembrava venire da un uomo, ma da uno strumento torturato. Tutto il corridoio ne risuonò. Tutto l'edificio dovette udirlo. «Non gridare!» esclamò K, incapace di trattenersi. E mentre guardava ansioso verso la direzione da cui dovevano venire i commessi, dette una spinta a Franz, non violenta, ma sufficiente perché quello tramortito cadesse e con mani convulse grattasse il pavimento. Ma non sfuggì ai colpi. La verga lo trovò anche per terra. Si torceva sotto di essa, mentre la punta della verga si alzava e si abbassava con regolarità. E lontano già appariva un primo commesso, a qualche passo di distanza un secondo. K aveva chiuso in fretta la porta. Si era avvicinata a una finestra che dava sulla corte, l'aprì. Le grida erano cessate del tutto. Per non far avvicinare i commessi, gridò: «Sono io!» «Buonasera, signor procuratore», gridarono quelli. «È successo qualcosa?» «No, no», rispose K. «È solo un cane che urla nel cortile!» Siccome i commessi non si muovevano, soggiunse: «Potete tornare al vostro lavoro!» Per non essere costretto ad avviare una conversazione coi commessi, si sporse dalla finestra. Quando dopo un po' guardò nel corridoio, quelli erano scomparsi. K tuttavia rimase vicino alla finestra, non osava tornare nel ripostiglio e non voleva andare a casa. Guardava in un piccolo cortile quadrato intorno al quale erano disposti degli uffici. Tutte le finestre erano già buie, solo quelle più alte catturavano un riflesso di luna. K si sforzò di penetrare con lo sguardo la tenebra di un angolo, dove alcuni carretti erano infilati uno nell'altro. Lo tormentava il pensiero di non essere riuscito ad impedire le bastonate, ma non era colpa sua se non era riuscito. Se Franz non avesse gridato, certo il dolore doveva essere stato molto forte, ma nei momenti decisivi bisogna dominarsi. Se non avesse gridato, K molto probabilmente avrebbe trovato un altro mezzo per convincere il bastonatore. Se tutti i funzionari inferiori erano dei bricconi, perché doveva fare eccezione proprio il bastonatore, che copriva l'ufficio più disumano? A K non era neppure sfuggito come al bastonatore fossero brillati gli occhi alla vista della banconota. Evidentemente aveva manovrato il bastone sul serio, solo per alzare un po' il prezzo della corruzione. E K non avrebbe lesinato. Gli stava davvero a cuore liberare le guardie. Se aveva cominciato già a combattere la corruzione di quel tribunale, era naturale che attaccasse anche da questa parte. Ma nel momento in cui Franz aveva cominciato a gridare, tutto, naturalmente, era finito. K non poteva permettere che arrivassero i commessi e forse anche altra gente a sorprenderlo mentre trattava con la cricca del ripostiglio. Nessuno, in verità, poteva pretendere questo sacrificio da K. Avesse avuto intenzione di farlo, sarebbe quasi stato più semplice se si fosse spogliato, offrendosi al bastonatore in sostituzione delle guardie. Il bastonatore, d'altra parte, non avrebbe accettato tale soluzione, perché così facendo, senza ricavare nessun vantaggio, avrebbe gravemente mancato al suo dovere. Avrebbe anzi mancato due volte, perché K, finché era sotto processo, doveva essere invulnerabile per tutti gli impiegati del tribunale. O forse potevano valere anche qui disposizioni particolari. In ogni modo, K non aveva potuto fare altro che chiudere la porta, sebbene neppur con questo fosse ancora eliminato per K ogni pericolo. Che alla fine avesse dato uno spintone a Franz era deplorevole e scusabile, soltanto con la sua agitazione. Sentì lontano i passi dei commessi. Per non dare nell'occhio, chiuse la finestra e si diresse verso la scala principale. Arrivato vicino al ripostiglio, si fermò un poco e tese l'orecchio. Silenzio assoluto. Quell'uomo poteva aver bastonato le guardie a morte, dopotutto erano in sua balia. K aveva già teso la mano verso la maniglia, ma poi la ritirò. Non poteva aiutare più nessuno. I commessi sarebbero arrivati subito. Si ripromise tuttavia di discutere la cosa e di punire come meritavano e secondo le sue forze i veri colpevoli, gli alti funzionari, nessuno dei quali aveva ancora osato apparirgli davanti. Mentre scendeva la rampa davanti alla banca, osservò attento tutti i passanti, ma per quanto lontano guardasse non vide nessuna ragazza in attesa. Il rilievo di Franz, che la fidanzata lo aspettava, si rivelava una bugia, certo scusabile perché si proponeva soltanto di destare maggior pietà. Il giorno successivo, K continuò ad avere in mente le guardie. Era distratto nel suo lavoro e per venirne a capo dovette trattenersi nell'ufficio un poco più del giorno precedente. Quando, accingendosi ad uscire, passò di nuovo davanti al ripostiglio, aprì la porta come per abitudine. Quello che scorse invece del buio che si aspettava lo sbalordì. Tutto era uguale, come lo aveva trovato la sera prima, aprendo la porta. Stampati e bottiglie d'inchiostro subito dopo la soglia, il bastonatore con la verga, le guardie ancora tutte svestite, la candela sullo scaffale, e le guardie cominciarono a lamentarsi e a gridare. «Signore!» Subito K richiuse la porta e vi batté i pugni contro, come se con questo la chiudesse meglio. Quasi piangendo, corse verso i commessi che lavoravano tranquilli ai copialettere e si interruppero stupiti. «Quando vi decidete a mettere ordine nel ripostiglio?» gridò. «Si affonda nel suddicio!» I commessi si dissero pronti a farlo il giorno dopo. K annuì, in quell'ora tarda non poteva più costringerli a quel lavoro come veramente avrebbe voluto. Sedette un po' per tenere d'occhio qualche momento i commessi. Mise in disordine alcune copie per far credere che le esaminava. Quindi, accertatosi che i commessi non avrebbero osato uscire insieme con lui, stanco, la testa vuota, si avviò verso casa. Thank you. Un pomeriggio, K era in quel momento, poco prima della chiusura della posta, molto occupato, tra due commessi che portavano carte, si fece avanti nella stanza lo zio Carl, un piccolo possidente di campagna. La vista dello zio lo spaventò meno di quanto, molto tempo prima, non fosse spaventato dalla sola idea di vederlo. Lo zio doveva venire, K lo sapeva con certezza ormai da un mese. Fino da allora gli era parso di vederlo, un po' curvo, il panama gualcito nella sinistra, in atto di porgergli la destra già a distanza, di allungarla con fretta indiscreta sopra la scrivania, rovesciando tutto quello che trovava sul suo passaggio. Lo zio aveva sempre fretta, perseguitato com'era dall'infelice idea che nell'unica giornata di permanenza nella capitale doveva sbrigare tutto quello che si era proposto, senza lasciarsi sfuggire, inoltre, nessun colloquio, affare o divertimento che l'occasione gli offrisse. K, che gli doveva molto perché lo aveva avuto come tutore, lo doveva aiutare in tutti i modi e farlo per di più pernottare presso di sé. Lo chiamava il fantasma di campagna. Subito dopo i saluti, di sedere nella poltrona accettando l'invito di K non aveva tempo, lo zio pregò K di concedergli un breve colloquio a quattro occhi. «È necessario», disse ingoiando a fatica. «È necessario per la mia tranquillità». K fece subito uscire i commessi dalla stanza, con l'ordine di non far passare nessuno. «È vero, Joseph, quello che ho sentito?» esclamò lo zio appena furono soli, e sedette sul tavolo schiacciando, senza guardarle, delle carte, per sedere più comodo. K rimase in silenzio. Sapeva quello che sarebbe venuto dopo, ma, alleggerito d'un tratto dal lavoro faticoso, si abbandonò anzitutto a una piacevole spossatezza, guardando attraverso la finestra verso il lato opposto della strada, di cui, dal suo posto, si vedeva solo un piccolo ritaglio triangolare, un pezzo di muro vuoto tra due vetrine. «Tu guardi dalla finestra!» esclamò lo zio alzando le braccia. «Per amor del cielo, Joseph, rispondimi! È vero, può essere vero?» «Zio caro», disse K, strappandosi dalla sua distrazione, «non so proprio cosa vuoi da me». «Joseph», ammonì lo zio, «tu hai sempre detto la verità, per quanto ne so. Devo considerare le tue ultime parole un brutto segno?» «Immagino quello che vuoi», disse K arrendevole. «Probabilmente hai sentito parlare del mio processo». «È così», disse lo zio, annuendo adagio. «Ho sentito del tuo processo». «Da chi?» chiese K. «Me l'ha scritto Erna», disse lo zio. «Lei non ha contatti con te, purtroppo non te ne occupi molto. Eppure l'ha saputo. Ho ricevuto oggi la lettera e naturalmente sono partito subito». Trasse la lettera dal portafoglio. «Eccola. Scrive. È un pezzo che non vedo Joseph. La settimana scorsa passai dalla banca. Ma Joseph era tanto occupato che non mi fecero entrare. Aspettai quasi un'ora, poi dovetti tornare a casa perché avevo lezioni di piano. Avrei parlato volentieri con lui. Forse ne avrò presto occasione. Per il mio onomastico mi mandò una grande scatola di cioccolatini. È molto caro e premuroso. Dimenticai di scriverlo a suo tempo. Me ne ricordo solo ora che me lo chiedete. La cioccolata, come sapete, sparisce subito dalla pensione. Non appena si è avuto sentore che qualcuno l'ha ricevuta in regalo, non c'è più. Ma a proposito di Joseph, volevo dirvi ancora altro. In banca, ripeto, non mi lasciarono passare da lui, perché in quel momento era occupato con un signore. Dopo aver aspettato tranquilla per un po', chiesi a un commesso se il colloquio sarebbe ancora durato molto. Rispose che era possibile, perché probabilmente si trattava del processo intentato contro il signor procuratore. Domandai che processo fosse, se non si sbagliava, ma disse che non sbagliava, era proprio un processo, e anche un processo serio, ma di più non sapeva. Da parte sua avrebbe volentieri aiutato il procuratore, un signore così buono e retto, ma non sapeva da che parte cominciare, e poteva solo augurarsi che dei personaggi influenti si occupassero di lui. Io non detti naturalmente molta importanza a simili discorsi. Cercai anzi di rassicurare quel commesso ingenuo, gli proibii di parlare di questo con altri, e penso che siano tutte chiacchiere. Ciò nonostante, sarebbe forse bene se tu, carissimo babbo, volessi occuparti della cosa in occasione della tua prossima visita. Ti sarà facile avere notizie più precise e, quando fosse davvero il caso, intervenire con le tue conoscenze influenti e importanti. Ma se non fosse necessario, cosa più probabile, la tua figliola avrà almeno l'occasione di presto riabbracciarti con sua grande gioia. Una brava ragazza, disse lo zio quando ebbe finito di leggere, asciugandosi gli occhi. Kappa annuì. I fastidi degli ultimi tempi gli avevano fatto dimenticare completamente Erna. Aveva dimenticato persino il suo compleanno e la storia dei cioccolatini doveva essere stata inventata solo per scusarlo agli occhi dello zio e della zia. Tutto ciò era molto commovente e certo non abbastanza compensato dai biglietti di teatro che si proponeva di mandarle d'ora innanzi con regolarità. D'altra parte adesso non si sentiva di andare nella pensione e di intrattenersi con una piccola liceale di 18 anni. «E ora cosa dici?» chiese lo zio, che con la lettera aveva dimenticato fretta e agitazione, e parve leggerla da capo. «Sì, zio», disse Kappa. «È vero». «Vero?» gridò lo zio. «Che cosa è vero? Come può essere vero? Che processo è? Non sarà un processo penale!» «Un processo penale», rispose Kappa. «E tu te ne stai lì, tranquillo, con un processo penale sul collo!» esclamò lo zio, alzando sempre più la voce. «Tanto più tranquillo sono, tanto meglio per l'esito», disse Kappa, stanco. «Non avere paura». «Questo non può rassicurarmi!» esclamò lo zio. «Josef, caro Josef, pensa a te, ai tuoi parenti, al nostro buon nome. Tu sei stato fino ad oggi il nostro onore. Non puoi diventare la nostra vergogna. Il tuo atteggiamento», soggiunse fissando Kappa con il capo piegato, «non mi piace. Nessun imputato innocente si comporta in questo modo se ha ancora energie. Dimmi presto di che si tratta perché possa aiutarti. Si tratta certo della banca». «No», disse Kappa alzandosi. «Ma tu parli a voce troppo alta, caro zio. Il commesso starà origliando fuori dalla porta. È sgradevole. Usciamo, piuttosto. Risponderò a tutte le tue domande meglio che saprò. So benissimo di dover rendere conto alla famiglia». «Giusto!» gridò lo zio. Giustissimo, ma in fretta, Joseph, in fretta! Devo dare ancora delle istruzioni, disse Kappa, e chiamò al telefono il suo sostituto, che arrivò dopo pochi istanti. Lo zio, nella sua agitazione, gli accennò con la mano che Kappa lo aveva fatto chiamare, cosa d'altronde fuori di dubbio. Kappa, in piedi davanti alla scrivania, a bassa voce, con il sussidio di vari documenti, spiegò al giovane che ascoltava impassibile ma attento cosa doveva portare a termine in sua assenza prima di sera. Lo zio, spalancando gli occhi e mordendosi nervosamente le labbra, disturbava anche se non ascoltava, ma solo l'apparenza che lo facesse era fastidiosa. Poi cominciò a camminare avanti e indietro per la stanza, fermandosi di tanto in tanto, ora davanti alla finestra, ora davanti a un quadro, uscendo in esclamazioni come «Proprio non capisco!» oppure «Ditemi adesso che succederà!» Il giovane si comportava come se non si accorgesse di nulla. Ascoltò tranquillo sino alla fine le istruzioni di Kappa, prese qualche appunto e se ne andò, dopo essersi chinato davanti a Kappa come davanti allo zio, che però gli voltava le spalle guardando dalla finestra e spiegazzando le tende con le braccia tese. La porta si era appena chiusa quando lo zio esclamò: «Finalmente quel burattino se n'è andato, ora possiamo andare anche noi! Finalmente!» Roberto Pedicini ha letto Il processo di Franz Kafka, riduzione di Grazia Basile, regia di Adelchi Battista, coordinamento di Fabiana Carobolante, il terzo anello @rai.it.